20:46, Subverso con Vamos 2020. Siamo un po' in ritardo sulla scaletta, ma è l'ultima puntata e quindi sforeremo ampiamente, anche perché avevamo molte argomentazioni di cui parlare. Settimana scorsa dovevamo farci una chiacchierata con un compagno per quanto riguarda l'iniziativa che c'era stata il 31 marzo in via Montebello a Milano, in Turati, in difesa dei diritti dei migranti, degli immigrati e delle immigrate, in realtà, che chiedevano anche il minimo indispensabile per vivere. E purtroppo settimana scorsa il compagno ha avuto il Covid, oggi volevamo fare anche un'intervista in diretta, ma era un po' complicato, quindi ci ha mandato un contributo audio. Proveremo ora a mandarlo con un sottofondo musicale, vediamo un po' come esce. E scusate per l'arrangiamento in diretta. Buonasera a tutte e tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Mala Radio. Come molti di voi già sapranno, lo scorso giovedì 31 marzo si è svolta una mobilitazione dei migranti e delle migranti qua in Italia, una mobilitazione relativa alla campagna Documenti per Tutti, una campagna che nasce soprattutto da una spinta dei lavoratori delle campagne, quindi da parte dei braccianti presenti soprattutto nel Foggiano, in Calabria, a Saluzzo e in vari altri posti d'Italia, che però nel tempo ha saputo creare relazioni con altre lavoratrici e lavoratori immigrati qua in Italia, tra cui anche appunto Ci Siamo di Milano. Ci sono state, come dicevo, varie mobilitazioni in alcuni posti della Calabria, a Foggia, a Modena, a Torino, a Roma e anche a Milano. In alcune situazioni c'è stata la richiesta di incontrare anche la prefettura per portare appunto una serie di rivendicazioni concrete in merito a tutta una serie di problematiche che oggi i migranti affrontano nella richiesta di documenti. Invece a Milano si è deciso, per esempio, di andare di fronte alla questura di via Montebello, dove inizialmente la polizia ha cercato in tutti i modi di impedire questa mobilitazione, ma diciamo la determinazione dei partecipanti, delle persone che hanno partecipato all'assemblea che hanno promosso e partecipato alla mobilitazione, ha fatto in modo invece che non si facesse un passo indietro. Loro ci avevano chiesto di spostarci in piazza Cavour, che comunque sarebbe stato lontano comunque dalla questura, non alla portata della questura. Invece siamo riusciti, uscendo dalla metro di Turati, a bloccare la strada per circa 3 ore, via Montebello intendo, sicuramente le persone che in quel giorno erano in coda per lo svolgimento, lo svolgimento appunto delle loro pratiche, eccetera, in qualche modo siamo riusciti a intercettarli, tanto che uscendo dalla questura alcuni di loro sono passati dal presidio e hanno preso il volantino. Siamo riusciti comunque a parlare, a dirci alcune cose. Come dicevo, in questa mobilitazione, in altre parti d'Italia, in alcune altre città, tra cui Roma e Foggia, era stato richiesto un tavolo per cercare di ottenere alcuni di punti fondamentali, tra cui per esempio la non possibilità oggi di convertire il permesso speciale in permesso lavorativo, o tutta un'altra serie di problematiche legate a situazioni territoriali, tipo nel Foggiano, eccetera. Ecco, qualcosa si è riusciti a portare a casa. A Roma, per esempio, invece il tavolo non è neanche stato aperto, nonostante un mese di trattative, anche la promessa precedente a questa giornata di mobilitazione di avere la possibilità, appunto, di avere questo incontro con questa delegazione, cosa che poi invece effettivamente non è avvenuta. Sicuramente c'è l'intenzione di proseguire, di andare avanti con nuovi momenti di organizzazione ma soprattutto anche poi di mobilitazione. Noi abbiamo scelto di andare in questura a Milano perché le questure sono dei posti dove avvengono delle situazioni si è scelta appunto la questura perché si sa tutta l'arbitrarietà di quello che in questi posti avviene quando le persone singolarmente, i migranti presenti qua in Italia devono andare a fare le loro richieste di permessi di soggiorno. Noi riteniamo che non debbano essere quegli luoghi dove le persone debbano andare a chiedere il proprio documento, ma potrebbero benissimo essere altri posti civili dove non per forza di fronte ci si debba trovare di fronte una forza dell'ordine, un poliziotto o chi per esso, e i documenti dei migranti non dovrebbero effettivamente essere gestiti come un problema di ordine pubblico. Nella piattaforma rivendicativa ci sono anche altri punti, tra cui oltre appunto al fatto di avere un permesso di soggiorno senza nessun tipo di discriminazione dal punto di, rispetto al lavoro, rispetto alla residenza e rispetto ad altri vincoli, e anche la possibilità che questo possa essere valido in tutta Europa, che le persone nate in Italia possono risultare cittadine italiani, che in questa piattaforma si rivendicano anche, per esempio, tutti quei la chiusura dei CPR, no? Uno di quei meccanismi apposta per controllare i fenomeni migratori, in questo caso per i rimpatri, eccetera, e la fine anche dei decreti sicurezza, che sicuramente sono rappresentano uno di quei passaggi peggiorativi, per quanto possibile, appunto, rispetto a quello che è l'accesso al permesso di soggiorno. Inutile ricordare che senza permesso di soggiorno è molto difficile riuscire ad avere accesso a tutta una serie di permessi e di diritti, a trovare un contratto di lavoro, un contratto d'affitto, accesso alla sanità. Sono tutte situazioni che diventano chiaramente problematiche, se non impossibili, senza un permesso di lavoro. Come dicevo all'inizio, si andrà avanti, la campagna continuerà, pertanto vi chiediamo di seguire questa mobilitazione. Vi segnalo due pagine sui social che sicuramente seguiranno. Una è quella, la pagina di Ci Siamo Rete Solidale, e l'altra è la pagina Documenti per Tutti, che è la pagina dedicata sulla campagna, che raccoglie tutte quelle che saranno le mobilitazioni che da qui in poi verranno messe in atto e verranno costruite qua in Italia, fino al raggiungimento di alcuni obiettivi che possono fare dei passi avanti rispetto appunto all'eguaglianza.